America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. I'm really honored to be here and thank you so much, Ruth, for your kind expressions. Consensus for change. Absolutely correct. This message. Ecco, scusate, ma torno su questa cosa di Matteo Renzi che parla inglese, perché dopo essermi permesso ieri di dire che tutto sommato il suo inglese è accettabile o comunque comprensibile, è meglio che lui parli in inglese piuttosto che in italiano, sono stato sommerso da una serie di Twitter che mi attaccavano, diceva: ma non è vero, quello l'inglese non lo parla bene. Io confermo che in realtà secondo me lo parla bene, ma confermo soprattutto, perché abbiamo parlato di inglese nei giorni scorsi, quanto sia importante comunque parlarla questa lingua, perché è la lingua di comunicazione internazionale ed è la lingua con cui ci si riesce a esprimere e a capire fra persone di nazionalità diverse. E dunque, in modo direi indiretto, voglio tornare su questo argomento, perché siamo partiti lunedì raccontando la storia di Trevor Noah, un sudafricano che è stato chiamato a sostituire Jon Stewart, grande star della televisione americana, per il Daily Show, che è una trasmissione televisiva di finte notizie, oppure parte dalle notizie vere per fare un po' di satira. E qual era l'elemento di fondo? Che l'America è un paese aperto, che prende anche qualcuno che non è americano, ma magari parla la lingua. E dunque, continuando su questo filone, siccome parlando con Francesco Guerrera ci si è resi conto che poi è difficile tornare in Italia, cioè nel momento in cui uno imbocca una carriera internazionale c'è la fuga dei cervelli, però poi noi cervelli non siamo pronti a riaccoglierli in modo aperto o in modo adeguato. E dunque, per parlare di questo fenomeno, ho con me ai microfoni di America 24 il professor Virgilio Sacchini, che è professore di chirurgia alla Cornell University Memorial Sloan Kettering, che è l'ospedale per la cura del cancro più importante degli Stati Uniti, numero uno nell'ultima classifica, e il professor Sacchini è arrivato qui molti anni fa. Professor Sacchini, buongiorno. Buongiorno, è un piacere essere con voi, grazie di avermi interpellato. Sull'inglese, quando sono arrivato 14 anni fa qui, probabilmente parlavo l'inglese meno bene di Renzi. L'America è un incredibile paese che guarda più alla sostanza che non alla formalità, e quindi è importante che uno sappia comunicare e che valga nel proprio lavoro. Ho sentito sicuramente Renzi e premetto che non sono dentro nella politica italiana, quindi non voglio fare delle dichiarazioni politiche, ma dal punto di vista del suo inglese era assolutamente comprensibile e riusciva a comunicare molto bene. Questo è essenziale, poi tutti fanno errori, gli stessi americani coniugano male i verbi. Attenzione professore, adesso la devo avvertire, perché adesso anche lei dice che Renzi tutto sommato parla un buon inglese. Se riceverà dei Twitter che l'attaccano, che dicono così, non è mia responsabilità. Non è l'inglese di Oxford. Certo, no, però l'importante, come diceva lei, è comunicare. Ecco, è possibile la fuga dei cervelli al contrario? Cioè, poi una volta che un cervello, tra virgolette, una volta che un'alta professionalità si è formata e si è creata, per esempio negli Stati Uniti, è facile rientrare in Italia? Per lei sarebbe facile rientrare in Italia? In realtà è molto complesso. La fuga dei cervelli io la vedrei più come una situazione di mobilità che fa parte della globalità in cui viviamo, quindi uno può dall'Italia andare in un altro ospedale o può venire in America a lavorare. Certamente la selettività è diversa, sappiamo che negli Stati Uniti, in molti paesi, è molto più selettivo raggiungere determinate posizioni, essere ad esempio ordinari, universitari, è molto più difficile e molto più basato sui meriti. Così vuol dire che invece magari in Italia non è molto basato sui meriti, ma è basato sulle conoscenze, sulla politica? Purtroppo sì, e mi spiace dirlo, purtroppo c'è un criterio di selezione che è diverso, e quindi spesso ci sono delle pressioni soprattutto a livello universitario per determinati individui. Quindi noi ricercatori, noi universitari, non è che vogliamo tornare in Italia e essere privilegiati perché siamo negli Stati Uniti. No, assolutamente, perché un docente americano può valere meno di un docente italiano, assolutamente. assolutamente, però ecco, ci piacerebbe che venisse presa in considerazione la nostra esperienza, i nostri titoli, quello che abbiamo fatto nelle nostre università. Ho ricevuto delle richieste, mi hanno fatto delle richieste che però alla fine non sono riuscite ad andare in porto, alla fine sono state ostacolate da colleghi o da altri universitari. Ma lei comunque, voglio dire, resta nell'ospedale per il cancro numero uno, insegna in una che è quella delle più prestigiose università americane, la Cornell. Alla fine credo che sia l'Italia che si impoverisce, no? Perché questo è il rischio che abbiamo. Quando c'è stato un primo contatto avevo l'ambizione di portare un sistema di organizzazione americana in alcuni settori universitari o anche settori di ricerca che sono ben testati negli Stati Uniti e che hanno un grosso successo, e poi anche instaurare un certo collegamento, se vogliamo un'interazione con l'università americana, in modo che ci fosse stata un'ottima interazione sia per gli studenti americani sia per gli studenti italiani che potevano avere un riscontro di un'università americana. Ecco, professore, parliamo della sua materia, perché il cancro al seno, sono sicuro che abbiamo chi ci ascolta, che può essere una donna curiosa, può essere un marito che è preoccupato per la moglie, per la figlia, eccetera. Ecco, cosa si raccomanda oggi? La prevenzione è molto importante, è vero? Perché prima si arriva, meglio è. La prevenzione è essenziale, quindi la mammografia, l'esame preventivo più importante, che a volte non è sufficiente, soprattutto per le donne giovani, per cui bisogna insistere anche sulla storia genetica delle donne e quindi valutare la familiarità ed eventualmente effettuare il test genetico per vedere se una donna giovane è predisposta ad avere un tumore mammario o ovarico. Ecco, questo è quello che ha fatto in realtà Angelina Jolie, la grande attrice che ha avuto la madre che è morta di cancro al seno a qualche, non so, 52-53 anni, e si è accorta di avere una predisposizione genetica. Come si chiama il gene, scusi? Il gene si chiama BRCA1 o BRCA2, e ce ne sono due di geni mutati che aumentano il rischio di tumori mammari e aumentano il rischio di tumori mammari molto aggressivi, ecco, e quindi, anche di tumori ovari. Angelina Jolie ha deciso di avere una doppia mastectomia, cioè ha avuto una doppia asportazione del seno. È stato troppo? Qualcuno ha detto è eccessivo. Cosa dice lei? No, Angelina Jolie ha fatto l'asportazione del seno e più anche l'asportazione ovarica, e questi due interventi sono stati salva vita. Non poteva rischiare di avere un tumore aggressivo, letale, come il tumore che ha ucciso la mamma, la zia e altri componenti della sua famiglia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho sempre con me i microfoni, America 24, il professor Virgilio Sacchini, professore alla Cornell University, grande esperto di cancro qui al Memorial Sloan Kettering. Professore, la vuole scegliere lei la canzone del giorno? Cosa le viene in mente? Con piacere. A me piace September Song, che è una canzone di Frank Sinatra. September Song, una canzone molto... Come mai le viene in mente questa? È un po' nostalgica, ma insomma sono 14 anni che sono qui, ieri è stato il mio compleanno, gli anni passano, ci sono nostalgie, nostalgie dell'Italia, nostalgie degli amici, ed è una canzone che mi dà una certa emozione. Allora, September Song di Frank Sinatra per celebrare il compleanno del professor Sacchini. Auguri! When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I let the old earth take a couple of wars. And this time came around as she came my way. As time came around, she came. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.